A tempo di sport. Ecco che torniamo per i finali e per sigillare la vittoria della Roma nel derby, non 1-0 ma 2-0, perché c'è stato un finale da dimenticare totalmente, con grandi nervosismo, grandi scorrettezze, giocatori della Lazio che hanno letteralmente perso la testa oltre che la partita. Espulso Radu per una testata simplista al 43esimo dopo la punizione di Totti, che vi ho raccontato prima, 25esimo del secondo tempo. E poi c'è stato al 46esimo un rigore solare, peraltro, per fallo in tandem di Biave Brocchi su Simplicio. I giocatori della Lazio sono riusciti a protestare in maniera veramente smodata anche per questo rigore, che era chiarissimo, tanto che c'è stata perfino l'espulsione di Matuzalem. Totti ha trasformato il rigore per la Roma, il quinto derby consecutivo vinto, record eguagliato. Dunque giornata nerissima per la Lazio, che perde partite, giocatori, anche in vista delle prossime gare, e perde anche il quarto posto a beneficio dell'Udinese, che invece ha danzato a Cagliari vincendo 4-0, Benassia, Sanchez e poi doppietta di Di Natale. Attenzione, perché in zona retrocessione a questo punto forse il nome più gettonato, uno dei nomi più gettonati, è quello della Sampdoria, che ha perso ancora anche a Catania e adesso ha 3 punti dalla zona retrocessione. Quindi la Fiorentina ha vinto 1-0 a Verona con il Chievo, il gol di Vargas su punizione. Il Palermo infila un'altra sconfitta, la seconda consecutiva dell'era Cosmic, chissà quanto durerà con Zamparini. Oggi il Palermo non subisce tanti gol, uno solo, ma quanto basta. Gol di Floro Flores al 32esimo del secondo tempo e dunque Genoa che vince questa gara. Così come il Bologna praticamente può già da oggi festeggiare la salvezza, perché ha vinto 1-0 a Lecce, decide il gol di Ramirez al 33esimo del primo tempo. Questi risultati, cui va aggiunto quello più sorprendente e più importante in prospettiva scudetto di giornata, quello dell'anticipo dell'ora di pranzo, cioè l'1-1 tra Milan e Bari a San Siro. Di tutto questo parleremo subito dopo il GR, cominceremo a parlare subito dopo il GR con A Tempo di Sport. Vi aspetto. A Tempo di Sport. Ecco che torniamo per una giornata sportiva davvero molto interessante, giornata di campionato davvero molto interessante. Perché? Perché sembrava praticamente finita la corsa a scudetto e invece no. Il pallore di Milan e Inter dona un sacco alla lotta a scudetto, che rimane apertissima dopo l'1-1 di oggi all'ora di pranzo del Milan con il Bari, peraltro in rimonta dopo il gol di Rudolf nel primo tempo, la rete di Cassano al 37esimo della ripresa, una sorta di tiro al bersaglio anche molto impreciso da parte dei rossoneri, che sono rimasti in 10. E qui l'altra notizia chiave della giornata: sono rimasti in 10 nel finale di partita perché un Ibrahimovic sempre più smunto, sempre più nasuto, sempre più nervoso, è stato espulso per una manata a Rossi, che poi è quello stesso Rossi che si prese un cazzottone da Chivu, che sarà meglio quando gioca con le milanesi, si presenti in tenuta da football. Oggi molto meno violento il colpo, malandrino, scendendo da un contrasto aereo, manata sul fianco e espulsione diretta, sacrosanta, dello svedese da parte di Brighi. Svedese che con ogni probabilità salterà il derby, anzi mi viene da dire con la certezza assoluta salterà il derby, che è tra 2 settimane, domenica prossima. Il prossimo weekend il Milan va a Palermo, un Palermo che è in caduta libera insieme alla Sampdoria, la cui situazione è veramente pericolosa. Quindi prossimo weekend Milan a Palermo e Inter in casa con il Lecce, poi c'è il derby e poi l'Inter avrà in casa il Chievo e il Milan, vediamo se mi ricordo, andrà a Firenze. Ditemi voi se la lotta a scudetto può essere chiusa. Poi possiamo anche discutere sul fatto sull'utilità in questo momento di un Ibrahimovic assolutamente appannato, non solo per la partita di Londra non è stata una partita da mal di pancia di antica memoria, ma è stata semplicemente l'ennesimo episodio di un giocatore che nell'ultimo mese e mezzo è nettamente fuori condizione. Possiamo discutere sull'utilità appunto di Ibrahimovic anche in chiave derby. Questo è uno degli argomenti. Poi ci sono ovviamente risultati freschi, a cominciare dal derby di Roma, che ha avuto un finale, come prima dicevo, da dimenticare molto in fretta, perché tutto il nervosismo della Lazio per questa quinta sconfitta consecutiva nei derby deciso da Totti, che in una stracittadina non segnava dal 2005, pensate, oggi ha segnato 2 gol, 25esimo su punizione. punizione che viene lasciata filtrare da una barriera assolutamente colpevole, così come colpevole è Muslera che si incarta su un pallone centrale, insomma abbastanza un gollonzo, anche se il tiro di Totti era molto potente, ma soprattutto un gol pesantissimo perché apre la via alla vittoria giallorossa. Al 43esimo, con la Lazio che aveva già completamente perso i nervi oltre che praticamente la partita, testata di Radu a Simplicio, quindi è una continua gazzarra da lì fino alla fine dei 6 minuti di recupero concessi da Tagliavento, perché Totti finisce in mezzo ad ogni tipo di risse e di rabbia laziale. Al 46esimo c'è un rigore nettissimo per fallo di Biava e di Brocchi in tandem su Simplicio, e i giocatori della Lazio, già evidentemente molto oltre l'orlo di una crisi di nervi, vanno a protestare in maniera piuttosto violenta con Tagliavento. Mathusalem viene espulso, quindi la Lazio perde, oltre a Radu, anche Mathusalem, oltre alla partita a Radu, a Mathusalem, anche il quarto posto a vantaggio dell'Udinese. Insomma, giornata nerissima per i biancocelesti, rigore trasformato da Totti appunto al 46esimo. Roma batte Lazio 2-0, già che ci siamo, Totti con Sky a bordo campo. È importantissimo che vincere contro la Lazio fa sempre un certo effetto, poi soprattutto fare gol da un romano, un romanista verace, una doppia soddisfazione. Poi per un momento particolare, dove veniamo da una brutta sconfitta ai Donetsk, e sono contento per la squadra, soprattutto per la gente. Questo probabilmente sarà l'ultimo derby della famiglia Sensi, gli hai fatto un bel regalo. Sì, sicuramente sarà l'ultimo derby, e sono contento per aver fatto questa grande vittoria per loro, perché gente che si merita veramente, gente che mi ha sempre la faccia e gente che va ringraziata. Questa Roma, la Roma vista oggi, a questo punto ha le carte in regola per arrivare al quarto posto, per tornare in Champions League. È normale, è il nostro obiettivo, cercheremo di arrivare fino in fondo, poi sta sempre, dipende da noi se fare bene o male. L'ultima, la dedica per chi era? Abbiamo visto insomma una vecchia maglietta a quale sei sempre unica, per chi era? Per mia moglie, anche perché erano 2 anni che abbiamo fatto ieri insieme, e era destino che quando mi sono messo con lei ho fatto gol la prima volta, e oggi uguale. Insomma, strappalacrime, ragazzi, Francesco Totti, vi lascio immaginare, Giorgio De Luca in regia, in redazione, Valeria Bernardi, romane e romanisti in regia, ve la lascio immaginare mentre stavamo dicendo queste cose. Voglio sentire la vostra voce, 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666 per i messaggi. C'è Cristiano da Cagliari che scrive: se Milan e Inter fanno rientrare l'Udinese, per loro potrebbe essere l'errore fatale. Udinese che oggi ha banchettato a Cagliari, ho sospetto che il Cagliari stia iniziando la stagione della beneficenza, ormai è ha una classifica meravigliosa in Europa. Io continuo a pensare Cellino non abbia alcun interesse, intenzione di andarci, quindi non dico che regali le partite, ma certamente Non mi aspetto nel finale di stagione un Cagliari molto rabbioso. Guidolin invece, che ha vinto 4-0, che adesso è terzo, ha agganciato il Napoli che giocherà stasera col Parma, ha vinto 4-0 con gol di Benassia, con una perla meravigliosa di Sanchez, gol maradonesco, quello del Legno Maraviglia, doppietta del solito di Natale nella ripresa. Guidolin, coraggio, un altro salto in classifica, andiamo avanti, adesso siamo allo scoperto e vediamo di resistere alle avversarie, al ritorno delle avversarie, cercare di fare di vincere ancora e di proseguire se possibile migliorando ancora la nostra classifica. Complimenti ve ne fanno tanti, le critiche forse è lei a farle. A bordo campo se la prende con Sanchez, che alle volte è troppo lezioso, vorrebbe un po' più di semplicità da parte dei suoi attaccanti, e soprattutto stavolta avrebbe voluto che non mollassero sul 4-0, perché un po' hanno smesso di giocare. Ma no, non abbiamo smesso di giocare, comunque è vero, sì, un po' nella parte finale, quando la tensione agonistica è inevitabilmente calata perché il risultato era nettamente dalla nostra parte, abbiamo rischiato di prendere gol, e siccome c'è anche una tabella della nostra difesa che sta migliorando molto e a cui teniamo tutti come gruppo, sollecitavo i ragazzi a cercare di giocare con la stessa determinazione dei primi 70-75 minuti, proprio ma nel tentativo soltanto di preservare e migliorare in termini di minutaggio lo score che abbiamo in classifica dal punto di vista dei gol subiti. Questo è Guidolin. Intanto io vi regalo il gol di Sanchez, che al 44esimo del primo tempo, un minuto prima, aveva sbloccato Benassia di testa su angolo di Natale. 44esimo, Sanchez che parte dalla tre quarti difensiva, si fa tutto il campo, per la verità con pochi ostacoli da parte dei cagliaritani, sdraia un difensore, fa sedere il portiere e quindi deposita in porta il pallone con un tocco che, insomma, è solo una suggestione, ma ricorda molto da vicino il famoso tocco di Maradona cadendo per terra dopo aver saltato il portiere, il famoso tocco di Maradona in Messico contro l'Inghilterra. Ho un messaggio di un tifoso sandoriano che scrive: sono preoccupato per la mia Samp, l'impressione è che i pochi giocatori buoni non siano preoccupati dalla classifica, evidentemente hanno le valigie pronte. Questo io non lo so, non posso saperlo, so però che c'è una serie di, insomma, anche di coincidenze da brividi che contano relativamente, però contano per chi crede a queste cose. La statistica dice che il campionato che si chiude il 22 maggio come quest'anno è nefasto per la Sampdoria, che in due casi su due è retrocessa. Se vogliamo dire anche non c'è due senza il tre, non lo so, però la Sampdoria è davvero in caduta libera, terza sconfitta consecutiva nonostante il cambio di allenatore. Una squadra, oggi 1-0 a Cagliari, gol di Yama al 30esimo della ripresa, era un confronto diretto per la salvezza, una lotta salvezza che vede la Sampdoria a questo punto pesantemente indiziata, perché è appena tre punti sopra Lecce, che è terzultimo. La Fiorentina invece sta bene, oggi ha vinto anche a Verona con il Chievo con pieno merito, peraltro gol di Vargas al quarto del secondo tempo, con anche in questo caso una punizione che sia una barriera che si apre colpevolmente davanti alla punizione di Vargas. Quindi altra squadra in caduta libera è il Palermo, oggi alla quinta sconfitta consecutiva, la seconda dell'era Cosmi. Dicevo prima, non ha subito molti gol, oggi uno soltanto, ma quanto basta. 32esimo della ripresa, Floro Flores, Genoa batte Palermo 1-0. Dicevo del Lecce che si è complicato molto la vita in prospettiva salvezza, perdendo in casa con il magnifico Bologna di quest'anno, 1-0, gol di Ramirez al 33esimo del primo tempo. E Lecce che aveva la possibilità di, insomma, quantomeno di agganciare Cesena, che era pareggiato 2-2 con la Juve, come sapete, e invece rimane terzultimo da solo a quota 28. Dopo il traffico vi leggo anche la classifica e poi comincio a parlare con gli ascoltatori. I primi sono Luca da Torino, Andrea dalla provincia di Milano. 800 24 00 24 è il numero verde. Strade in diretta. Buonasera, 2 chilometri di coda per un incidente sulla 8 Milano-Varese in direzione Milano tra Legnano e Lainate. C'è un incidente anche sull'Autosole, si rallenta in direzione Roma tra Ponte Corvo e Ceprano. Sulla 7 Milano-Genova, 2 chilometri di coda per lavori che si sono resi necessari dopo un incidente tra la 12 Genova-Livorno e il bivio per la A10 Genova-Ventimiglia in direzione del capoluogo Ligure. Per lavori, rallentamenti e code sulla 5 Torino-Osta tra Quincinetto e l'innesto con la 4 in direzione di Torino. Si ricorda infine la chiusura della 33 Asti Cuneo tra Isola d'Asti e Azzano nei due sensi di marcia, anche in questo caso per lavori. È tutto, il prossimo aggiornamento tra mezz'ora. A tempo di sport. Milan 62, Inter 57, Udinese che acchiappa al momento il Napoli che gioca stasera con il Parma nel posticipo a 53 punti, la Lazio che, come dicevo prima, oggi perde partita, derby, giocatori in vista che verranno squalificati in vista dei prossimi appuntamenti. E anche il quarto posto, che a quota 51 la Lazio, e la Roma si riporta lì a 49, molto staccata, e la Juventus a 42. Quindi la coppia Fiorentina-Palermo 40, quindi Cagliari e Bologna 39 punti, Genoa 38, Chievo-Catania 32, Sampdoria 31, Parma e Cesena 29, Lecce 28, Brescia 26, Bari 17. Una battuta di Montella con Sky. Grande soddisfazione, sicuramente le sensazioni sono leggermente diverse da giocatore rispetto a quando fa l'allenatore, però sono alquanto, cioè nello stesso modo belle. Paolo, prima delle tue domande voglio far vedere questo. Vincenzo Montella, Luca da Torino, buonasera. Sì, buonasera Torgenta. e complimenti. Grazie. Superfluli e scontati. Niente, io sono contento comunque, visto la tifosa interista, sì, perché il calendario, insomma, l'Inter giocherà 6 partite a Milano e 3 fuori, sì, anche se c'è il derby. Prossime 3 in casa, prossime 3 in casa di fatto. Milano ha trasferte non semplici, soprattutto le ultime 2, e quindi non so, penso che il campionato sarà comunque più bello, anche se scarsamente tecnico. Mm. A proposito di tecnico, io forse quest'anno veramente tra i migliori, essendo ex arbitro di calcio, dopo sono passato ad arbitrare il basket perché paradossalmente è più facile. Sì. E quindi vedo che veramente gli arbitri sinceramente hanno una percentuale di realizzazione, cioè di fischi, sì, giusti, ma veramente alte. Verissimo. Ma vedi, Luca, uno dei temi di oggi secondo me è l'arbitraggio di Brighi a San Siro, perché pronti via all'inizio del secondo tempo annulla un gol a Robinho per fuorigioco millimetrico, ma che c'era. Poi annulla un altro gol a Ibrahimovic per fallo di mano. Poi i milanisti protestano in un paio di occasioni per rigori che a velocità normale dall'alto sembrava potessero anche starci, invece poi non c'erano. Insomma, quantomeno oggi Brighi ha dato una spallata a tutti quelli che parlano di scudetti già assegnati, di sudditanza psicologica. Un fatto è che Brighi non si è prostrato al diavolo per nulla oggi, No, no, assolutamente. Ma io voglio dire, perché le moviole, contro moviole, si vedono da Marte questi filmati, queste riprese. Cioè l'occhio umano non ha la percezione. E io forse spererei, anzi, di aggiungere altri 2 guardaline, cioè fare 4 guardaline e 2 giudici, di 2 arbitri di porta. Sì. Perché il gioco è molto più fisico, molto più veloce, la gamba la si lascia mai indietro. Ecco perché comunque dico che gli arbitri veramente fanno fatica, ma sono anche bravi, certo. Vedere delle piccolezze, sì. Ci vuole veramente occhio e allenamento, insomma. Ha ragione, oggi vedere una partita da vicino, da bordo campo, è un'esperienza incredibile, perché sono contrasti ad una velocità e con un'intensità che sono degni del... Sembra rugby, sembra football americano, insomma, il calcio è velocissimo, e lei dice sono passato al basket perché è più semplice, probabilmente è anche vero paradossalmente, anche se gioca in uno spazio molto più ristretto, perché oggi appunto l'intensità del calcio non ti concede soste. Lasciamo stare poi la pressione, questo è un altro discorso. Andrea, provincia di Milano, buonasera Andrea. Sì, buonasera, complimenti per la trasmissione. Due domande velocissime. Prego. Una di rugby, sì. Mi sembra che ieri, da quello che ho potuto vedere, l'Italia abbia fatto una gran partita. Do soltanto due dati velocissimi: al 50esimo perdevamo 6-18 e al 74esimo abbiamo vinto 22-21, sì, quindi con una gran difesa, e mi sembra che questo sia veramente un gran successo contro una Francia che nel 2010 ha vinto il certo campione in carica. Una prima riflessione. La seconda è su questo: siccome diciamo stiamo parlando anche di calcio, perché non pensare all'introduzione anche nel calcio, visti i clamorosi errori arbitrari oggi a San Siro, i 2 gol annullati, il rigore oltretutto che era palesemente e oggettivamente esistente ed è stato negato al Milan, perché non pensare a introdurre anche nel calcio, diciamo, il quinto uomo e quindi il diciamo l'operatore televisivo, perché è vero perché quello non che diceva lei. Andrea, però perché non, visto che lei è partito dal rugby, però perché non imparare da quella mentalità lì, lasciando stare la partita ieri, il risultato, il successo con la Francia pure meraviglioso. Perché poi vede, spesso il calcio lo guardiamo come fa lei, peraltro legittimamente con gli occhi del tifoso. Oggi Brighi, secondo me, ha arbitrato benissimo a San Siro, perché il fuorigioco c'era, perché il gol di Brighi ci andava annullato, perché quei rigori onestamente poi rivisti non c'erano. Dunque è stato bravissimo Brighi e siamo qui a dire, ma però Brighi non ci ha dato quello, mettiamo la moviola in campo. Io continuo a non essere d'accordo, non mi piace la moviola in campo, però questione di gusti, spero non arrivi mai. Mi auguro arrivi prima o poi il pallone intelligente, magari, perché quello sì è un'innovazione che nel 2011 ci può stare ampiamente, ma le televisioni in campo lì a decidere, insomma, cosa che a me non piace. Intanto io saluto e ringrazio l'uomo che sembrava aver chiuso il campionato, Beppe Iachini, che ha fermato l'Inter con il suo Brescia disegnando Ciao. Una partita perfetta. Ciao Beppe. Molti hanno sottolineato Breaking News. E c'è un aggiornamento dal Giappone, perché dopo l'allarme di una seconda centrale, quella di Miyagi, adesso c'è l'allarme per una terza centrale. L'impianto di raffreddamento del reattore nucleare di Tokai si è bloccato, lo ha riferito poco fa l'agenzia Kyodo citando i vigili del fuoco. Si tratta di una centrale nucleare che è nella prefettura di Ibaraki, 120 chilometri da Tokyo. Dunque terzo allarme per una terza centrale nucleare in difficoltà in queste ore dopo il forte tsunami che ha colpito il Giappone venerdì scorso. Aggiornamenti nel GR delle 18. Pazzesco, sembra non finire mai questa catena di notizie da brividi che arrivano dal Giappone. E Beppe, l'hai sentito anche tu? Sì, davanti a queste cose qui, a queste tragedie, insomma il calcio... Ci accapigliamo sugli arbitri, poi... secondo piano, discussioni del calcio passano sicuramente in secondo piano. Certo, ci accapigliamo sugli arbitri e sulle moviole e poi arriva la breaking news e ti viene la pelle d'oca. Sì. Tu come sei messo con la storia della moviola in campo, che non mi ricordo? Ma io sono d'accordo, insomma, cioè sì. Ci può stare, insomma, un aiuto, visto che il calcio è diventato molto più veloce, molto più ribaltamenti di fronte, azioni magari fuori giochi, magari rispetto a qualche decennio fa più esasperati, squadre più corte, più, è chiaro che magari un aiuto potrebbe essere una cosa positiva, anche perché quest'anno noi, per quanto ci riguarda, sicuramente ci avrebbe dato dei vantaggi, insomma, alla lunga, quindi però va bene. Senti mister, molti hanno sottolineato come hai strabattuto Leonardo nella sfida delle panchine. Ad esempio Alberto Ceruti ieri sulla Gazzetta dello Sport di ieri l'ha evidenziato a chiare lettere quanto il Brescia fosse bello di fronte a quell'Inter. Io ringrazio, però ecco, non è, ho battuto Leonardo, diciamo che il Brescia ieri ha fatto una gara come sta facendo, ecco, in queste ultime partite, veramente delle ottime gare, e avevamo davanti l'Inter, una grandissima squadra, però sapevamo che solo attraverso una partita intensa, organizzata, e anche di molto propositiva, perché il fatto di dover rimanere solo lì non ci avrebbe portato nulla, se non ripartivamo non andavamo anche noi dare i presupposti per poter andare in gol, perché l'Inter è una squadra che poi nelle sue corde ha giocatori molto molto forti che possono risolverti la gara in qualsiasi momento. Abbiamo fatto un'ottima gara, alla fine da un lato c'è la soddisfazione per la prestazione che ci dà continuità, ma nello stesso tempo, sai, avere al 90esimo un'occasione come quella di un rigore insomma sul finire di partita per poter portare a casa i tre punti, è chiaro che c'è rammarico in questo. Sì, che impressione ti ha fatto l'Inter la vigilia di Monaco di Baviera? Ma è una squadra sicuramente molto qualitativa, una squadra che ha delle grosse individualità in tutti i reparti. Tutti parlano dell'attacco, ma anche in difesa, dove spesso magari accettano anche situazioni di uno contro uno, in mezzo al campo, a centrocampo, sono giocatori, una squadra molto strutturata sia tecnicamente, tatticamente, anche a livello di forza fisica, quindi sicuramente è una squadra che sa di dover andare a giocare in uno stadio caldo, una partita difficile, ma nello stesso tempo ha tutte le potenzialità per poter ribaltare il risultato. Beppe, vedendo certe volte il tuo Brescia, mi viene da dire, avesse Di Vaio, ma faccio un nome a caso, avesse di Natale questo Brescia, un giocatore che la butta dentro con continuità. Sia prima che io andassi via, che io parlo della mia parentesi iniziale, dopo quando sono tornato, la squadra ha sempre fatto prestazioni importanti, ha creato sempre diverse opportunità per andare in gol. Purtroppo non siamo riusciti a concretizzare sempre, cioè, parecchie volte la mole di gioco e delle occasioni che creavamo, c'è stata anche tanta sfortuna. Caracciolo è un giocatore che quest'anno insomma avrebbe potuto avere tranquillamente nel suo tabellino almeno 15-18 reti già in classifica cannonieri, purtroppo è stato sfortunato veramente, pali, traverse, salvataggi sulla linea, insomma occasioni, anche lo stesso Eder, però peccato, perché sicuramente questo avrebbe voluto dire diversi punti in più, e per quello che la squadra aveva espresso come gioco, insomma sarebbe stato un giusto coronamento al lavoro. Chiudo notando la classifica laggiù in fondo, tutto sommato un turno per voi favorevole, con questo punticino il Lecce ha perso, il Cesena ieri ha fatto il punto che sappiamo contro la Juventus, il Parma gioca stasera, ma volevo chiederti una valutazione sulla Sampdoria, terza sconfitta consecutiva, anche lì si è cambiato allenatore, pessima aria su una Sampdoria che non riesce più a ritrovarsi, e quando parti dall'alto, cioè dal campionato dell'anno scorso, dalle qualificazioni per la Champions, poi andate buche, Ebbene, quando parti da lì, poi fermarti è difficile, eh? Sì, beh, sicuramente quando si imbocca una strada di un certo tipo, in un ambiente abituato magari a lottare per altri traguardi, ma poi il fatto stesso di essere partiti in una stagione con competizioni, anche più competizioni, ma anche quella europea, è chiaro che c'è stato un grande dispendio nervoso e di energie, fisico e mentale ovviamente, quindi è chiaro che poi qualche risultato viene meno, può subentrare un po' di paura, l'ambiente magari, ripeto, è abituato a magari altri tipi di classifica, visto il grande campionato dello scorso anno, e quindi ora è lì, come tutte le squadre che sono dai, penso dai 33 punti, 32-33 punti in giù, saranno impegnate fino in fondo nella lotta per non retrocedere. Situazione bruttina. Chi vince lo scudetto, Milano o Inter? I punti di vantaggio del Milan ci sono, a 9 giornate da fine sono importanti. Io penso che sarà determinante anche la partita di martedì dell'Inter, in questo senso, penso perché che... se l'Inter dovesse superare il turno, è chiaro, l'impegno europeo con il Milan impegnato magari solo al campionato potrebbe essere un qualcosa che magari potrebbe, anche se ha una rosa importante l'Inter, potrebbe magari penalizzare un attimino i nerazzurri, però è sicuramente ancora, il campionato è molto aperto anche per la lotta per lo scudetto. D'accordissimo, grazie mister, buon lavoro. Prego, buon lavoro. Grazie. Ciao, ciao. Grazie a Beppe Iachini, ci fermiamo per una breve pausa, poi torniamo. 800 24 00 24, e fatemi sentire la vostra voce. Nonostante la più grande crisi del nostro tempo, ogni giorno è una sfida che devo vincere. Milioni di artigiani e piccoli imprenditori lavorano. Se non ci fossero quelli tosti come noi che davvero rischiano in proprio, che fine farebbe questo paese? E producono. Sì, anche orgoglio. Affrontare il mondo, innovare, competere, dare lavoro. Sono donne e uomini pieni di coraggio. È l'Italia che sostiene l'Italia. CNA è al loro fianco. Chiunque ce l'abbia fatta da solo, non era solo. CNA e le imprese. Valore d'insieme. CNA.it. Ecopolis Expo & Conference, le migliori pratiche per l'ambiente urbano e la città sostenibile. 23-25 marzo, Fiera Roma. Accreditati su ecopolis.fieraroma.it. Nuovo Renault Master. Motori Euro 5. Oltre 350 versioni. Trazione anteriore o posteriore. Fino a 22 metri cubi di carico. Qualsiasi lavoro trova il suo spazio su nuovo Renault Master. Fino al 31 marzo, nuovo Renault Master, l'unico Euro 5 con trazione anteriore e posteriore, a 14.900 euro, con usato anche da rottamare, leasing TAN 2,99. Salvo approvazione fin Renault, fogli informativi in concessionaria. Ti aspettiamo sabato e domenica. Gli abbiamo dato tanto. Troppo. Tutto. Tutto sì, ma non Credit Reform. Il gruppo Credit Reform, con un fatturato di 533 milioni di euro, è la prima società di informazioni d'Europa ed evade ogni anno più di 16 milioni di informazioni commerciali e 500.000 aggiornamenti gratuiti a 170.000 clienti. Un servizio unico, completo, sicuro. Credit Reform è la prima scelta di banche, compagnie d'assicurazione e grandi aziende. 800 425 325 o creditreform.it. Vuoi aprirti le porte del lavoro? Scegli LIUC, l'Università di Castellanza. LIUC è pensata dalle imprese per le imprese. LIUC ti segue con attenzione e ti prepara in modo accurato. LIUC è internazionale, con programmi di studio all'estero. Entra subito nel mondo del lavoro. Scopri dov'è il test di ammissione più vicino a te. Vai su liuc.it. Tempo in diretta. Previsioni a cura del Centro Epson Meteo. Una buona serata agli ascoltatori di Radio 24. Dopo una domenica diffusamente perturbata, la settimana comincerà con una relativa tregua che anticipa un nuovo intenso peggioramento atteso tra la seconda parte di martedì e mercoledì. Domani quindi tempo in miglioramento, soprattutto in termini di piogge, con pochi fenomeni residui su estremo nord-est e Toscana, Umbria e Lazio. Le schiarite più significative si apriranno al sud e nelle isole. A fine giornata torna qualche pioggia su Liguria, Basso Piemonte, Emilia e intorno all'Appennino settentrionale. Temperature massime ovunque in aumento di 2-3 gradi, punti intorno ai 20 gradi al sud e nelle isole, per effetto di intensi e miti venti di scirocco. Per maggiori dettagli consultate il sito meteo.it, e con questo è tutto. Il mio papà ha alla partita IVA e lavora con il suo smartphone, che fa anche le previsioni meteorologiche. Così, quando mi porta al parco, indovina sempre se ci sarà il sole o le nuvole. Più servizio per la tua attività, più tempo per te. Passa a Vodafone Partita IVA. A marzo hai una promo speciale. Un Samsung Galaxy Mini con mail, internet e più di 700 minuti di chiamate. A 35 euro al mese per 6 mesi. Perché l'importante sei tu. Vai su Vodafone.it o chiama l'800-127-777. Vodafone. Messere! La matriciana è ferma al confine con lo Stato Pontificio! Messere! La bagna cauda dispersa nel regno di Sardegna! Andiamo all'autogrill? Unire l'Italia è la nostra ricetta più grande. In Autogrill prova le nuove specialità gusto italiano, dedicate ai 150 anni dell'Unità d'Italia, in edizione limitata, dal 16 marzo ad un prezzo imperdibile. Sì, quel progetto riservato era sul portatile che mi hanno rubato. Non sottovalutare la sicurezza dei tuoi dati. Cambia portatile. Con Fujitsu e Intel, massima sicurezza, anche in movimento. Il notebook Lifebook Fujitsu protegge sempre i tuoi dati e in caso di furto o smarrimento puoi rintracciarlo e cancellarli da remoto. Lifebook Fujitsu, con processore Intel Core i5. Nuovi Lifebook Fujitsu. 800-466-820 o cambiaportatile.it. Congratulazioni, Rossi. Lei è il nuovo caporeparto. Avrà un ufficio tutto suo e un bel aumento. È contento? Caporeparto, tutte quelle responsabilità. Non potrei avere solo l'ufficio e l'aumento? Ma certo, come no? Ti piace avere solo il meglio delle cose? Subaru Legacy. La versatilità di una Wagon e l'aderenza di una sportiva. Insieme. Scopri l'unicità di Subaru Legacy. Da 26.400 euro anche con finanziamento fino a 20.000 euro in 48 rate da 469,25 euro. TAN 2.9 TAG 3.96. Fino al 31 marzo salvo approvazione istituto erogante. A tempo di sport. Dunque l'Inter parte per Monaco di Baviera con Lucio, che è stato inserito nell'elenco dei convocati. Grossi dubbi peraltro non ne avevo, dato che è il giocatore più d'actor studio che si veda su un campo di calcio. Ogni volta che viene toccato sembra un infortunio terminale, invece poi si rialza e vive e lotta insieme a noi. Comunque Lucio, nonostante questo leggero fastidio al gluteo, ci sarà, così come Cambiasso, Kiwu e Thiago Motta. Emergenza attacco invece non c'è Milito, naturalmente. Con l'Inter, il primavera dell'agnello, Eddie Reia con Sky. Inter una bellissima partita, però niente, ho trovato sto episodio della punizione, adesso era abbastanza centrale, mi sembra che Muslera era coperto e da lì in poi è subentrato un po' di nervosismo, e non ci stavamo chiaramente a perdere sta partita, però lo stesso con questo tipo di atteggiamento chiaramente non è sicuramente da provare, però ancora una volta insomma anche sto calcio d'angolo, sta punizione, c'è sempre Totti di mezzo, no? Sono queste situazioni e noi forse ci siamo caduti, e mi dispiace perché avrò fuori tre giocatori, Radu, avrò fuori Lichtsteiner che era diffidato e poi avrò fuori anche Ledesma, adesso vedremo. No, Matusalem non credo. Ma oggi non ci becco Ledesma, una volta, Ledesma. Niente, sto zitta, basta, no, non dico Ledesma, più niente. Ledesma, e di conseguenza con niente, i cartellini personali. Il campionato non è finito oggi, bisognava stare un po' più attenti, però è chiaro, ci ha messo 5 minuti per battere una punizione su quella zona lì. Però Totti non ha fatto niente di regolare, mister. No, ma assolutamente questo, niente regolare, però sai, ci mettono, no, ma dico un calcio d'angolo, una punizione, sono stati lì un 4-5 minuti per battere questa punizione, insomma. Vabbè, comunque noi siamo caduti dentro, forse un po' d'eccessivo nervosismo. No, non un po' d'eccessivo nervosismo, molto eccessivo nervosismo. Non è possibile che si finisca a Roma per pagare in maniera così pesante ogni derby in termini emotivi, in termini di squalificati, di infortunati. Però è così, la Lazio ha perso totalmente la Trebisonda nel finale, che secondo me poteva anche essere stigmatizzato con un po' più di decisione da Eddie Reia, perché quella grandinata di espulsione, comunque l'atteggiamento generale della Lazio non può nemmeno essere probabilmente giustificato con le piccole o grandi provocazioni di Totti, che non si fa mai mancare niente da questo punto di vista quando gioca un derby, questo però lo sappiamo bene. Giulio, provincia di Modena, buongiorno, poi c'è Giuseppe dalla provincia di Pavia, dica Giulio. Buonasera Ginta. Buonasera. io faccio questo ragionamento sul tridente, diciamo qui del Milan. Questo tridente, a mio avviso, con questo Ibrahimovic non funziona. Mi stupisce che Allegri insista, come ha fatto anche mercoledì, con Robinho, Pato e Ibrahimovic, che non si parlano evidentemente, quando si parlano non lo fanno per sorridersi evidentemente. Mi pare che con questo Ibra, che è il vero problema del Milan del momento, problema nel senso che il suo calo ha coinciso con il calo realizzativo del Milan. Lei ha ragione, però vede, Ibrahimovic pretende di essere condizionante per il suo modo di essere e di vivere il calcio, no? Pretende il centro del palcoscenico, è evidente che condiziona le squadre in cui gioca. È un giocatore che ti fa vincere le partite, ti fa vincere i campionati. Beh, mercoledì non c'erano molte alternative in realtà, cioè non si poteva, Allegri non poteva fare nulla di diverso, basta leggere chi aveva in panchina, insomma. In realtà Ibrahimovic, io sono andato a guardarmi lo score di Ibrahimovic quest'anno nel 2011, ebbene ha segnato 3 volte a gennaio, il 9 gennaio 4-4 con l'Udinese e quindi il 16 gennaio ultimo gol determinante di Ibrahimovic, l'1-1 a Lecce. Il 23 gennaio ha segnato al Cesena, ma al 93esimo della partita era già sull'1-0 per il Milan, e poi c'è stato quel rigore al Napoli che ci ricordiamo bene, quindi non segna su azione dal 23 gennaio in campionato. È chiaramente un giocatore che ha bisogno di rifiatare, ha bisogno di un ricondizionamento, no? Questo mi pare piuttosto evidente. Oggi gli sono anche saltati i nervi, probabilmente per come conseguenza di tutto questo, come conseguenza anche di una Champions League per lui stregata. Ecco, vedete, la differenza, si è detto molto di questo tallone d'Achille di Ibrahimovic nelle grandi partite, in particolare nelle notti europee. La differenza rispetto al passato interista sta nel fatto che Ibrahimovic è stato irrilevante l'altra sera a Londra, ma è un mese e mezzo che è irrilevante per il Milan Ibrahimovic, quindi in questo contesto va anche collocata la partita di Ibra a Londra. Giuseppe, provincia di Pavia, buongiorno. Buonasera dottor Genta. Dica. E volevo intervenire a riguardo dell'argomento Lazio, sì. Ahimè. E non c'è mai nulla di nuovo sotto il sole, come insegnano le Ecclesiaste. Cioè io, sa, resto basito nel vedere le prestazioni di Muslera come portiere, sa? Sì, anch'io. Non capisco ancora come si possa ritenere un portiere Muslera, perché quest'anno ha fatto davvero tante di quelle di strafalcioni in porta. Sì, è un portiere che non piace molto nemmeno a me. Ha delle qualità, perché è un portiere molto rapido, molto reattivo. Certe volte fa il miracolo, però io preferisco i portieri che magari non arrivano a fare il miracolo, però i tiri parabili li prendono. Muslera non è un portiere di questo tipo per niente. E poi volevo domandarle a proposito dell'argomento Zárate. Io, secondo me, sarebbe meglio cederlo Zárate, perché le ultime prestazioni lasciano alquanto a desiderare. Non piace per nulla, nemmeno Zárate. Il problema, sa qual è? Il problema è che la Lazio l'ha pagato un mucchio di soldi Zárate, e cederlo dopo questa stagione molto molto opaca vorrebbe dire rinunciare a un bel po' di quattrini. Pertanto io credo che Zárate resterà alla Lazio, ne sono quasi certo, conoscendo le dinamiche e conoscendo un po' lo Tito. Grazie Giuseppe, rimaniamo sul derby di Roma allora, andando da Guglielmo Timpano. Ciao Guglielmo. Buon pomeriggio Carlo, a tutte le amiche e tutti gli amici all'ascolto. Quinto derby consecutivo che va in tasca alla Roma. La Lazio, come ho detto prima, perde in questo pomeriggio un po' tutto quello che poteva perdere. Partita, giocatori, quarto posto, un sacco di nervosismo nel finale di gara. Ma perché se la sono presa così tanto con Totti? Perché volevano, erano lì ogni volta in 4-5 pronti a mettergli le mani addosso? Cosa ha fatto? Credo che fondamentalmente tutto nasca da uno scherno biancoceleste per quanto riguarda la comunicazione in ambito locale, che sai che è particolarmente accesa qui a Roma. Scherno che partiva dal presupposto che la Roma senza Francesco Totti aveva vinto gli ultimi 4 derby e spesso e volentieri Totti non era riuscito a risultare determinante. Dal 2005 non faceva gol Totti nella Stracittadina, oggi nel derby Stracittadina di importanza, con un gioco di parole ribattezzata di importanza capitale, Totti è stato migliore in campo con Daniele De Rossi, e probabilmente questo alcuni giocatori della Lazio non se l'aspettavano, ovviamente al fatto che poi negli ultimi minuti di partita come Francesco Totti ha congelato il pallone alla stessa della bandierina di destra, quella che divide la sud dalla Montemario, chiaramente può fare grande gioia per chi sta ottenendo il risultato chi lo sta portando a casa, ma crea nervosismo, l'ha detto anche lei a poco fa ai microfoni di Sky, crea nervosismo nei confronti di chi il risultato lo sta subendo. Sì. In particolar modo credo che in questo caso Totti abbia avuto, mi sembra di poter dire, anche se poi osservato dalla tribuna stampa, sapete come con tanti piccoli particolari possano sfuggire, mi sento di poter dire che ha avuto il merito di non cadere nelle provocazioni che nel secondo tempo non sono state poche all'indirizzo del capitano della Roma. Sì. Mi pare che la Roma questa partita comunque al di là di tutto l'abbia ampiamente meritata, la traversa di Pizarro dopo un pugno di minuti, quindi una grande occasione di Juan sempre nel primo tempo. La Lazio si è fatta vedere un paio di volte con Flocari, però mi pare che la vittoria ci stia tutta. Ma la vittoria ci sta tutta, penso di poter fare un raffronto a distanza da quella che è stata l'eliminazione della Roma dalla Champions League contro lo Shakhtar nella partita infrasettimanale di mercoledì, partita in cui la Roma ha perso gara, qualificazione e in parte anche la faccia, perché poi episodi di nervosismo evidenti avevano palestrato anche delle lacune mentali caratteriali di questo gruppo e di questa squadra. Oggi la Lazio sull'onda emotiva probabilmente dei quattro derby persi in precedenza, quindi intimorita dalla possibilità di subire questa manita, come è stata ribattezzata qua a Roma, questi cinque derby in fila, questo give me five che poi è circolato allo stadio dopo la partita, la Lazio è partita un po' contratta e si è lasciata andare ai nervi, perdendo in parte, sportivamente parlando chiaramente, anche la faccia, al pari di quanto aveva fatto la Roma in Champions League. Sì. Episodi come quello di Radu credo siano stigmatizzabili in qualsiasi situazione di gioco, anche se stai perdendo 1-0 al certo, derby, chiaro. Andare sotto gli occhi del guardalino è una testata. No, ma anche perché se... del secolo, ecco. Ma sì, non è l'idea del secolo, ma anche perché sei lì a lottare per un obiettivo importantissimo come il quarto posto. Io continuo a pensare che questo derby, che il derby di Roma, costi sempre troppo a tutte e due, in termini appunto di nervosismo, infortunati, squalificati, ripercussioni dopo la partita. Insomma, costa sempre tantissimo. In questo caso la Lazio continuerà a pagare il conto di questo derby nelle prossime puntate del campionato. Grazie Guglielmo Timpano, Traffico, poi Corrado, provincia di Grosseto, e Cesidio da Roma. A dopo. Strade in diretta. Buonasera, sulla 7 Milano-Genova 2 km di coda per lavori che si sono resi necessari dopo un incidente tra la 12 Genova-Livorno e il bivio per la 10 Genova-Ventimiglia in direzione del capoluogo Ligure. Inevitabili le ripercussioni anche sulla 12 con codi a partire da Genova Est. Sulla 26 dei Trafori in direzione Gravellona-Toce si è formata coda dopo un incidente tra Masone e Ovada. Risolto invece l'incidente segnalato in precedenza sulla 8 Milano-Varese in direzione Milano, ora code a tratti tra Legnano e Lainate. Per lavori si rallenta sulla 5 Torino Aosta tra Quincinetto e l'allacciamento con la 4 in direzione di Torino. Infine si anticipa, sempre in tema di lavori, che questa notte dalle 21 alle 6 la 14 Adriatica rimarrà chiusa nelle due direzioni tra Pesaro e Cattolica. Ed è tutto, appuntamento più tardi. Promo 24. Il clima ideale aiuta a rilassarsi e a cancellare lo stress. E adesso a Marrakech ci sono 26 gradi. In questo momento dell'anno è tempo di prenotare una vacanza in Marocco. Soli, con la famiglia o con gli amici, c'è più scelta, si spende meno e ci si sente subito in vacanza, nella terra di un popolo accogliente, in pace, all'ombra delle palme e di una storia antichissima. Il Marocco vi aspetta su www.visitmorocco.com. A tempo di sport. Proviamo con gli ascoltatori con grande piacere. 800 24 00 24 è il vostro numero verde per parlare con noi da ora fino alle 19 come ogni domenica. Corrado, buonasera. Buonasera signor Genta. Dica. Senta, mi faccia il risolvere arcano. Io sono un tifoso milanista. Risolvere arcano non so se posso. Oggi mi guardo la partita. A un quarto d'ora dalla fine mi esce questo tappo, come lo chiamavano l'anno scorso a Barcellona, e tutto in un tratto il resto della squadra inizia a giocare, pur con i limiti di non essere il Barcellona, gioca palla a terra, fa delle aperture laterali dalle quali nasce anche il pareggio, e riescono in un quarto d'ora a fare 10 azioni, di cui 4 pericolose, quasi riescono a vincere la partita. Però Corrado, il tappo qualcosina ha fatto, eh? No, no, il tappo ha fatto, però mi domando e dico, come ha detto lei prima, è un mese che purtroppo... Un mese e mezzo. Che per problemi almeno fisici, tecnici no, assolutamente, fisici, non sì gioca, e sì tutti invece con lui in campo... Palla lunga, spizzata. E non so, però vede una delle tante questioni che può sollevare la presenza di uno come Ibrahimovic sta anche nel fatto che lui un cambio non lo vuole, perché tanto gioca sempre, no? È il giocatore che gioca Ibrahimovic più altri 10, come disse un giorno Mourinho. Il problema è che il Milan una prima punta ce l'ha bisogno, grosso modo, no? Un giocatore comunque di impatto, per come è stato costruito da Allegri, ce l'ha bisogno. Se non è Ibrahimovic, e Ibrahimovic non sarà nel derby perché verrà squalificato, non sarà nemmeno a Palermo e con ogni probabilità non sarà nemmeno a Firenze dopo il derby, se gli danno tre giornate, come potrebbe anche starci. Ecco, allora, se non Ibrahimovic, chi? Però una squadra come il Milan, un allenatore come il Milan può mettere... Si vede che è un uomo d'acciaio, non si fa mai male, di conseguenza lo mette sempre in campo, però una scelta due ci dovrebbe essere, sì, perché... Sì. Questo è giustificabile, che questo possa ritrovare magari la forma fra 10 giorni e magari ti fa un finale di campionato dove, come all'Inter, ti ha fatto vincere lo scudetto 3 anni a fila, e qua da noi e qui al Milan invece in questo momento è un uomo normale, non è un fuorilà. Sì. E però vede, torniamo al discorso di prima, no? Ibrahimovic chiede il centro del palcoscenico e chiede sempre di stare su quel palcoscenico, cosa che gli allenatori quando lo prendono gli concedono, perché è un giocatore fatto così, con quelle caratteristiche. Chi si piglia come alter ego? Secondo me, quando hai Ibrahimovic, il problema è la gestione dell'emergenza, sperando che magari l'emergenza non ti capiti in situazioni delicate come capiterà al Milan in questo caso. Tenere un Borriello, faccio per dire un nome, per fargli giocare 3 partite, mi sembra esercizio inutile. Quindi il Milan giocherà presumibilmente con Pato prima punta, e Pato anche oggi l'ho visto abbastanza brillante. Come l'ho visto brillante a Londra, anche se in una partita molto difficile, alla fine sfortunata, quindi giocherà con Pato prima punta, con un attacco di piccoletti, magari condito dalla forza di Boateng, e così andrà verso il derby. Cesidio, Roma, buonasera. Buonasera, dottor Genta. Dica. Io sono tifoso della Juventus, vorrei parlare di Del Neri. Prego. Del Neri parla, ma nessuno lo capisce, neanche lo capisce quando parla. Come fa a parlare con gli giocatori? A me è molto simpatico, però Gigi Del Neri. Magari a lei meno, essendo tifoso juventino, immagino che insomma in un momento come questo l'allenatore non sia il massimo dei tuoi idoli, ecco. Del Neri come persona a me è estremamente simpatica, poi anche se ha questo modo un po' bizzarro di parlare, almeno dice spesso cose interessanti, spesso, piuttosto. Non so se lei condivide, ieri sera io Del Piero non l'avrei levato. Poi, ma non è che è Marotta che lo vuole tenere a to perché lo appoggia, lo vuole, mi scusi, Agnelli perché non lo caccia fuori questo? Ma chi, Del Neri? Perché se no ricominciano da capo, cambia 2 allenatori all'anno la Juventus, secondo me è giusto ormai, insomma, secondo me si dovrebbe in questo momento aprire alla Juventus la stagione degli esami, no? Esami che valgono per tutti, invece di dire questo luogo comune, le 10 finali e poi le 9 finali e poi le 8 finali e così via, sono 10 esami da superare, chi li passa è promosso e può restare per la ricostruzione, e secondo me c'è del materiale su cui ricostruire in questa Juventus, chi non li passa è rimandato e andrà a giocare da un'altra parte. Io le interpreterei così: se si cambia allenatore, quindi si continua a vivere in questa stretta emergenza, ho l'impressione che si perda solo del tempo. Questa è la mia opinione. Marco Dalignana da Genova invece. Buonasera Marco. Buonasera Carlo e buonasera agli ascoltatori. Raccontami l'ambiente blu cerchiato. Allora, l'ambiente blu cerchiato te lo racconto partendo da quello che ho visto a Marassi col Genoa, perché qui i genuani, come si sa, in tutte le città c'è grande rivalità, hanno esultato più al gol di Llama a Catania che al gol del Genoa, che è stato segnato praticamente negli stessi minuti contro il Palermo. I tifosi avversari sentono la città blu cerchiata, al di là del giubilo genuano, la città blu cerchiata, quanta paura ha in questo momento? Ha tantissima paura, perché vedono una squadra che ormai non ha più, non ha mordente, che non è più riuscita a superare il drammatico gennaio con le cessioni di Cassano, di Pastini, prima l'addio di Gasparin da signore, ma che comunque aveva fatto capire come neanche per lui ci fossero spazi di manovra in società, con il presidente che ha detto adesso il direttore generale sono io, con un direttore sportivo che in questi giorni ha ricordato ma io ero venuto qua solo per aiutare Gasparin, poi mi ci sono trovato in una situazione più grande di me, e quindi i tifosi vedono tutto questo senza neanche dover guardare poi quello che succede in campo, hanno capito molto presto come sarebbe andata la storia. Esatto. Marco, invece sulla partita di oggi, questa vittoria del Genoa, la Samp è in caduta libera, terza sconfitta consecutiva, ma il Palermo, che pure vabbè ovviamente non ha problemi di questo tipo, Palermo riesce a fare anche meglio o peggio, 5 sconfitte consecutive e Cosmi alla seconda battuta d'arresto. Sì, io guarda, pensavo che Zamparini l'avesse buttata quasi sulla gufata in settimana quando aveva detto la vedo molto brutta, abbiamo toccato il fondo. Invece aveva assolutamente ragione, perché il Palermo è venuto qui praticamente neanche per vincere la partita, non ci ha mai messo la cattiveria, il tutto è stato rappresentato direi da Pastore che ha, scusate il gioco di parole, ha pascolato proprio in tutto il campo dal primo all'ultimo minuto con una sufficienza direi irritante, ed è un po' lo specchio del Palermo di adesso, che non, forse capisce di non avere molti obiettivi, non so se addirittura considera l'Europa League come tutte le squadre italiane quasi un ostacolo, tutto sommato magari per loro finire ostacoli a questo punto non sarebbe un problema. Sì, chissà che Degli Rossi non senta già l'elastico tirare da dietro la schiena, perché andando avanti così Zamparini insomma gliene lascia ancora un paio, ho l'impressione, a Cosmi, poi basta. Anche se è reale quello che dici, perché nella nostra, così, il nostro essere bizzarri, l'Europa League, che tutta l'Europa e tutte le altre squadre europee considerano un traguardo, che giocano in maniera estremamente seria, come deve essere giocata seriamente una Coppa Europea, da noi diventa qualcosa che forse è meglio evitare, forse è meglio lasciar stare. Grazie a Marco Lignana, adesso ci dobbiamo fermare per il giornale radio, c'è in linea Gianfranco che chiama da Genova, ma credo voglia parlare non di Genova e Sampdoria ma di Milan. Ci sentiamo con lui, con altri ascoltatori, con i nostri ospiti dopo GR 800 24 0024, vostro numero verde, chiamatevi, prenotatevi. A tempo di sport. Eccoci che ripartiamo, dichiarazioni di De Rossi dopo il derby: ho i miei momenti di bassa marea ma io gioco per il collettivo e le cose migliori su di me le sento ormai fuori da Roma. Una volta a Roma ero coccolato, ora evidentemente è cambiato il vento, c'è qualcosa di diverso. Quanto alla mancata convocazione forse in nazionale per le regole, il codice deontologico stilato da Prandelli, De Rossi ha detto lui aveva messo in chiaro le cose dall'inizio con le sue regole, vediamo, se non mi convoca vorrà dire che mi riposo e non mi farà schifo, dice De Rossi. Sentiamo invece cosa ha detto Allegri oggi dopo il pareggio, dopo l'1-1 interno del Milan con il Bari. Sapevamo che non era una partita vinta in partenza, poi l'abbiamo complicata con questo gol preso nel primo tempo, abbiamo giocato un brutto primo tempo, poco mobili, abbiamo dato poca profondità, abbiamo allargato poco il gioco, cosa che abbiamo fatto molto meglio nel secondo tempo. Purtroppo sono partite in cui devi sempre avere la sicurezza difensiva, dispiace perché oggi era, se non sbaglio, la quinta partita che non prendevamo gol e invece siamo riusciti a prendere il gol, sono stati molto bravi loro, ci siamo un po' addormentati su quella punizione noi. Così Allegri. Gianfranco, buonasera. Buonasera, che vergogna. Cosa che vergogna? Povero Milan, ma senta, le propongo delle ipotesi, due ipotesi, due, come diceva Aldo Giordani, il grande giornalista di basket che lei ricorda. Come no, maestro due, Aldo Giordani. Due domande, Giordani. Due. Allora, cominciamo col Tottenham malissimo, cominciamo oggi col Bari malissimo, nei giorni nei quali invece bisognerebbe partire ruggenti e provare ad andare a prenderci il risultato. Non è che Allegri dica partiamo prudenti con calma e poi la situazione gli si ritorce contro, la squadra è troppo calma, dorme e oggi un primo tempo ridicolo. Per cui davvero una vergogna, tu sei lì, devi prenderti i 7 punti, vai piano, sbagli i passaggi, veramente ridicolo. Mi sembra un po' duro, vergogna da prima della classe. classe con 5 punti sull'Inter. I passaggi non attaccano l'ultima, l'ultima è veramente una roba da bruttissimo da vedere, un bruttissimo segnale, ho paura che vincerà l'Inter. L'altra provocazione che le lancio è questa. Ibrahimovic l'ho visto altre volte in certe situazioni fare dei fallettini strani, non è che fa il fallo apposta per dire vabbè adesso mi prendo un riposo così non così vado fuori tanto perché adesso col calcio champagne dei tre piccoli più Boateng probabilmente potrà anche andare meglio e speriamo, perché per me l'Inter in questo momento prende la rincorsa come bip e ci frega. Io giro tutte queste considerazioni a Enrico Curro, inviato di Repubblica, nostro amico. Ciao Enrico. Ciao. Ciao. No, che Ibra si faccia cacciare apposta beccando una probabile squalifica nemmeno tanto leggera e saltando il derby lo escluderei, È ancora da vedere, se bisogna vedere che cosa scriverà l'arbitro nel referto. Comunque effettivamente il rischio che salti il derby in questo momento esiste e non credo che uno possa essere così autolesionista da fare una cosa del genere. Detto questo, è verissimo che lui ha dato comunque la sensazione di non essere particolarmente afflitto dal cartellino rosso, perché pensare che un giocatore come lui, che di solito ha reazioni diciamo abbastanza sanguigne, abbia accolto quasi come con una liberazione questo cartellino, probabilmente vuol dire che lui stesso per primo si rendeva conto che più o meno consciamente si rendeva conto però che non stava dando e non sta dando in questo periodo al Milan quello che il Milan si aspettava da lui e che lui aveva dato fino a due mesi fa, perché fino a due mesi fa parlavamo di dipendenza del Milan da Ibrahimovic e non è che fosse un modo di dire, reale. No, ma lo dimostrano anche i recentissimi risultati quanto il Milan dipenda da Ibrahimovic, no? A partita di oggi a parte, in Champions League l'abbiamo toccato con mano, e poi è un Milan che fa una fatica dannata in questo momento a trovare il gol. Io l'ho letto come un gesto di grande frustrazione, quel fallo di Ibrahimovic, che sapeva benissimo che ha fatto la stupidaggine, quindi si è beccato un rosso che era sacrosanto. Sì, e tant'è. Esattamente la frustrazione. Si vede anche in altri momenti, altre fasi delle partite di Ibra. Per esempio quando viene preceduto, cosa che gli capita sempre più spesso, dai marcatori avversari, allora reagisce con il classico falletto di frustrazione appunto. Detto questo, siccome non si può pensare che un giocatore così forte improvvisamente abbia disimparato, è chiaro che bisogna anche aspettarsi che questo momento passi, bisogna vedere se passerà in tempo, perché il Milan non perda dei punti decisivi sull'Inter, di vantaggio sull'Inter, ma direi anche sull'Udinese. Può sembrare un'assurdità, però all'ultima giornata c'è Udinese-Milan. Sì. Intanto Allegri dovrà ridisegnare la squadra, perché tra le tante insomma tasse da pagare al genio di Ibrahimovic c'è anche il fatto che sappiamo bene lui un backup non lo vuole, non ce l'ha bisogno, quindi il Milan si ritrova a dover giocare mettiamo che gli diano tre giornate, facciamo finta, a Palermo, il derby e poi a Firenze, tre partite chiave con una squadra diversa nel disegno. Questo secondo me paradossalmente potrebbe anche non essere così difficile per Allegri ripensarlo, nel senso che Pato, mi ricordo la partita di Coppa Italia con la Sampdoria, che se non sbaglio è una delle pochissime in cui Ibrahimovic non c'era, Pato è stato veramente strepitoso. Si sta molto più adattando anche in nazionale a una posizione di centravanti, anche se un po' sui generis, però comunque agendo molto più in posizione centrale rispetto a come fa nel Milan. Si è visto oggi in alcune fasi della partita che lui partiva clamorosamente dall'esterno, dalla fascia, e mi è sembrato uno spreco pazzesco, considerato che Pato, che oggi ha giocato malissimo, è però un giocatore che anche nelle peggiori giornate riesce a tirare in porta almeno due o tre volte, quindi la logica fa pensare che se si avvicinasse un po' di più alla porta avversaria potrebbe segnare molto più di quanto già non faccia. Certamente, ti chiedo un attimo di pazienza, Enrico, il traffico in linea, subito dopo facciamo altre due chiacchiere su questo campionato che sembrava chiuso venerdì sera, tutti a dire ma adesso il Milan asfalta al Bari, invece non è così. Questo pallore di Milan e Inter dona comunque alla lotta a scudetto, in cui Enrico Curò ha inserito anche, attenzione, l'Udinese. Traffico. Strade in diretta. Lungo la 7 Milano-Genova ci sono code per lavori che si sono resi necessari dopo un incidente tra il bivio per la 12 Genova-Livorno e l'innesto per la 10 in direzione del capoluogo ligure. Ripercussioni anche sulla 12 con code a partire dallo svincolo di Genova-Est. Si lavora dopo un incidente anche sull'autostrada del Sole e tra Firenze e Sud Incisa ci sono delle code sulla carreggiata verso Roma. Per lavori e per il traffico intenso, rallentamenti sulla 5 Torino-Ossa tra Quincinetto e l'allacciamento con la A4 in direzione Torino. Code verso la Svizzera sarà sulla 9 per operazioni doganali tra Como, Monte Olimpino e Chiasso. Raccomandiamo infine prudenza per le piogge sparse su gran parte della penisola e anche per le raffiche di vento sulle coste, in particolare sul versante tirrenico. Per il momento è tutto, Strade in diretta torna tra mezz'ora. Promo 24. Ci si domanda che impatto avranno le notizie di oggi sulle valute mondiali e per questo bisogna poter dare valore alle proprie idee con il trading sui CFD. È possibile guadagnare operando al rialzo e al ribasso su migliaia di mercati, azioni, indici, valute e materie prime, iniziando a fare trading sui CFD con IG Markets. La piattaforma di IG Markets non comporta alcun canone di utilizzo, dà accesso a oltre 20 borse internazionali 24 ore su 24, offre notizie in tempo reale, un pacchetto grafici avanzato e un corso online gratuito per imparare tutto sui CFD. IG Markets è il primo in Italia per il trading con i CFD. Demo gratuita su www.igmarkets.it. A tempo di sport. Enrico Curò, quanto peserà la partita di martedì sera di Monaco sul campionato, secondo te? Ma io credo che non peserà tantissimo, sinceramente, nel senso che il Milan mi sembra molto preoccupato dell'Inter a prescindere dal cammino europeo dell'Inter. Potrebbe pesare naturalmente sulla squadra di Leonardo in termini di fatica, però sinceramente penso che alla lunga non ci siano grosse controindicazioni per l'Inter né in chiave scudetto né nel caso di eliminazione, perché a quel punto si potrebbe concentrare di più sul campionato, né in caso di qualificazione, perché a quel punto il morale diventerebbe molto migliore di quello di adesso e soprattutto molto superiore a quello del Milan. Credo piuttosto che ci sia un solo elemento, lo dico perché vedo spesso il Milan e mi sento di poter fare questa affermazione, che può un pochino cambiare gli equilibri, ed è la presenza di Boateng. Mi pare che lo avesse accennato anche voi nella telefonata di prima. Boateng è un giocatore che, e lo dimostrano i fatti, con la sua presenza solidissima a ridosso dell'area avversaria, col fatto che lui riesca a rubare tantissimi palloni, trasforma il gioco del Milan, che lo segue in questo pressing così alto, e automaticamente alza il ritmo, perché il grande problema del Milan è il ritmo, e credo che questa cosa la si sia vista soprattutto a livello internazionale, dove il ritmo è molto più alto che in Italia. Assolutamente, mi sembra una lettura totalmente condivisibile. Enrico, ti ringrazio, un abbraccio. Grazie Enrico Curro, mi sembra una lettura totalmente condivisibile questo Boateng, che fa un po' il trasformatore di energia del Milan, con la sua fisicità è messo lì a ridosso delle punte, ma non da ora. Ricordo ancora la partita interna del Milan con il Brescia, una partita giocata benissimo tra l'altro dai rossoneri e da Ibrahimovic su tutti, in cui Boateng, penso di forse la prima volta che giocava trequartista, che giocava in posizione così avanzata, ha dato davvero una spinta di intensità al gioco del Milan clamorosa. Andrea, provincia di Gorizia, buonasera. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori dall'autostrada sotto la pioggia. sono fermo. E niente. E dobbiamo farci una ragione, perché mi pare di capire, ho sentito anche prima il meteo, andrà avanti ancora per un po'. Sì, infatti sto facendo un cost to cost da Sanremo a Trieste. Ah, però. Ah, però. Sì, sì. Me la farò tutta fino in fondo con la pioggia. Vabbè, pazienza. E niente, sì, Udinese. Volevo giusto fare due riflessioni sull'Udinese. È in lotta per lo scudetto? No. No. No, però nessuno glielo chiede. Ecco, certo. Cioè, il mio riferimento era proprio a, alla società e al clima e al clima che si respira in città e attorno a questa società. Cioè, non ci, cioè, come immagino le prime sei giornate del povero Guidolin a Palermo, cioè, se fosse stata una cosa del genere a Palermo, cioè, sì. La terza era già in vacanza probabilmente. Però anche l'anno scorso a Marino, Sì, però... Marino però, con l'elastico in mezzo De Biasi, si ricorda. Sì, però tutto sommato era forse qualcosa magari anche di personale col presidente, ma la gente in fondo non ha mai creato pressioni particolari. Cioè, l'importante è che uno faccia il proprio dovere. Dopodiché si vince, si perde, non è un problema, no? E il fatto che poi se ne parli anche a livello nazionale pochino, vabbè, ci sta, insomma, tutto il Friuli a metà degli abitanti di Roma, quindi statisticamente ci sta. Poi devono fare 15 gol in tre partite e non prenderne da 5 perché se ne parli. Ma sa cosa, al di là della classifica, di quanto lei dice, assenza di pressioni, l'Udinese gioca davvero bene a calcio. Cioè, bene. In questo poi momento è la squadra che gioca nettamente meglio nel campionato italiano, non c'è nessun tipo di confronto. Poi, secondo me, partite come quella di oggi non fa testo, secondo me, partite come quella di domenica scorsa, in casa con il Bari, soffri, vinci da grande squadra, beh, quella è stato un segnale estremamente importante. Sono d'accordo sul fatto che l'Udinese non può competere per questo campionato, ma non tanto per i punti di distacco, visto che là davanti vanno in intermittenza. Il punto vero è che è divertente da vedere, è bellissima da vedere. Fossi stato un cagliaritano oggi sarei andato a vedere l'Udinese, invece a Cagliari, solito pubblico delle grandi occasioni, si potevano contare a Cagliari come a Lecce, come anche nel derby di Roma, amplissimi spazi vuoti. Questa è una consuetudine ormai. Buon viaggio, caro Andrea, buon viaggio e vada adagio sotto la pioggia. Io saluto un grande attaccante, Enrico Chiesa. Ciao Enrico. Ciao, buonasera a tutti. Mi scappa subito una domanda su una tua ex di cui abbiamo parlato anche prima, però che mi sembra davvero in rottura prolungata, come dicono nell'Ippica, la Samp. Eh sì, un'altra sconfitta. Si può sorridere solo che il Lecce ha perso in casa col Bologna. Sì, sì. Ha tenuto 3 punti di distanza, però in questo momento sta molto faticando. Il cambio di allenatore non ha portato per adesso a nulla, anche perché in una settimana è difficile fare dei cambiamenti, stravolgere un qualcosa, una squadra. Speriamo che da qui in avanti possa racimolare quei punti necessari per salvarsi. Senti Enrico, tu e l'allenatore attuale della Roma, Vincenzino Montella, in carriera vi siete sfiorati diverse volte, con la Sampdoria come epicentro, no? Siete stati l'uno il successore dell'altro. Come re dei gol, Montella allenatore, tra l'altro mi pare che avete fatto il corso insieme, no? Sì, no, stiamo facendo il master insieme, sì, a Coverciano. Come lo vedi? Bene, io penso che Vincenzo abbia portato in questa Roma un po' di tranquillità. Ha cercato di recuperare i giocatori importanti, ha fatto pochi cambiamenti. Forse quello più evidente è stato il rientro di Pizzarro, che penso che sia uno dei centrocampisti più forti attualmente in Italia, e con poche cose è riuscito un po' a dare più equilibrio a questa Roma, perché poi non dimentichiamo che ha un organico di primissimo livello. Sì, sì. Dopo Milan Inter c'è la Roma, e oggi vincendo il derby può dare una svolta a questo campionato. Oggi nel derby, dopo il gol di Totti, dopo il primo gol di Totti, più che tranquillo mi è sembrato pietrificato dalla tensione, non so se l'hai visto. Vabbè, ma poi ogni allenatore ha una sua reazione, un suo modo, certo, anche di stare in panchina. Io penso che Vincenzo abbia moltissima responsabilità quando poi guidi una squadra forte come la Roma, è normale. Beh, delle volte la tensione la scarichi anche stando tranquillo e magari penso che l'abbia detto anche in televisione. Lui ha queste reazioni, ma comunque... Tu invece in panchina come sei? Vittoria. Tu come sei in panchina? Ancora la panchina non ce l'ho, ma non lo so, sai, dipende, bisogna vedere, bisogna esserci in panchina. Quando fai essere giocatore è un'altra cosa, allenatore invece c'hai tante responsabilità, e non è facile. Il momento nero di Ibra invece, sempre a proposito di grandi attaccanti, come lo leggi, Enrico? Sì, sta attraversando un momento particolare. Sai, un giocatore che dall'inizio dell'anno ha giocato tutte le partite. Non è facile, anche se lui poi fisicamente è fortissimo, però è normale che ne può risentire. Giocare ogni tre giorni non è facile per chiunque, nemmeno per Ibrahimovic. Oggi ha fatto una stupidata, soprattutto probabilmente era una tensione, la sconfitta che la sconfitta che stava col Bari, magari ci può stare, sicuramente se n'è accorto subito lui che è andato via subito. Frustrazione per questo momento momento nero. Dall'immagine aveva avuto due tre palle gol nitide, soprattutto probabilmente si è innervosito dopo il gol annullato, che lui diceva che non era fallo e l'arbitro l'ha annullato, in più l'ha ammonito, perciò da lì un po' è cambiato l'Ibrahimovic. Sì, ma davvero ha la scimmia sulla spalla delle partite di Coppa, delle grandi partite, ormai sta diventando un'ossessione per lui. Queste cose pesano quando giochi, no? Sì, pesano sicuramente, ma pesa soprattutto per il mio. Un Ibrahimovic che in Champions è diverso, in campionato è un altro giocatore. Vabbè, ma questo può essere anche il fatto di che sia più stanco rispetto ad altri, ecco. Però non dimentichiamo che Ibrahimovic ha giocato in grandissime squadre, ha sempre fatto la Champions. Non credo a questo, io credo più a un fatto di stanchezza. La Juventus ieri sera, secondo te ha fatto qualche progresso oppure siamo sempre sull'elettroencefalogramma piatto o giù di lì? Ha fatto un pareggio, ha mosso un po' la classifica, ha giocato discretamente, però ha sofferto. Sicuramente è una squadra che non credo che in una domenica o un sabato come ieri possa guarire una partita. Ci sono stati dei buoni segnali, però per cercare di raggiungere una zona, un'Europa League, deve lavorare ancora tanto. Tanto. Poi anche ieri, l'ho detto prima, io Del Piero l'avrei lasciato dove era, cioè sul campo. Rinunciare a tutte e due, cioè a Madre Del Piero, mi è sembrato un... È la bella cosa del calcio, è questa. Che dopo siamo buoni tutti. A un certo punto, soprattutto conta quando ci sono campioni come i Del Piero, i Totti. Certo. Sicuramente quando poi c'è... da tirar fuori un qualcosa in più, i giocatori ci sono. Del Piero ieri penso che sia stato, ma non solo nelle giocate, ma fisicamente ho visto veramente un giocatore che rientrava, dava una mano, aiutava i compagni. Sì. La Juventus ha bisogno del suo carisma, ha bisogno del suo, in un momento di queste difficoltà. Una squadra in difficoltà così, sicuramente grandi giocatori, non so, io adesso mi viene in mente Totti, il Mutu della Fiorentina, i grandi campioni, quando poi la squadra in difficoltà sono quelli che poi riescono dal cilindro a tirare fuori un qualcosa di importante. Su quelli che tu vai a cercare. L'ultima cosa che ti chiedo, ed è una domanda che ti giro da un ascoltatore, che ti chiede, ti piace di più Pato o Sanchez? Ma attualmente Sanchez. Chi chiederai al tuo presidente, da allenatore? Attualmente Sanchez, probabilmente in prospettiva Pato, ma sono due giocatori, per me sono due giocatori diversi. Molto diversi. Sanchez, io penso che in contropiede sia uno dei giocatori più forti al mondo, soprattutto. Adesso è rispetto all'anno scorso fa anche gol, è più freddo sotto porta. Pato, non dimentichiamo, è molto giovane, gioca in una grandissima squadra, c'è una pressione totalmente diversa rispetto a Milan e Udinese, perciò bisogna anche pensare a questo. Sono due, è difficile scegliere, sicuramente se dovessi scegliere non è che sbaglio più di tanto. va bene, dici presidente, va bene uno o l'altro, me ne compri uno. Quello è sicuro. Grazie Enrico, un abbraccio, buon lavoro. Grazie a voi, buonasera. Bocca al lupo, un abbraccio Enrico Chiesa. Andrea da Bologna, poi ci fermiamo un attimo. Buonasera Andrea. Buonasera a lei. Senta, io sono un interista che voleva dire due parole sul Milan, ma soprattutto volevo pormi una prima questione e poi una rapidissima seconda. La prima è, ma perché si parla del Milan che ha 5 punti di vantaggio sull'Inter come se fossero la pari punti? Cioè, non è bizzarra come cosa, io almeno la trovo così. Sì. Perché sembra quasi che se la stiano giocando, non so, punta a punta, come fosse un... No, la sensazione però, sto parlando solo di questo, è che il Milan abbia una discreta paura. avevi una discreta paura e l'Inter sta provando a capitalizzare questa, questa paura. Quasi più del dovuto. Forse sì, mi sembra quasi come il corridore che è in fuga, non si aspettava di avere il vantaggio, tale vantaggio negli ultimi 5 chilometri o 9, visto per rimanere, fare il parallelo con le giornate che mancano, 9 chilometri dal traguardo della Milano-Sanremo e dice, oddio, non è che mi riprendono. Lì c'è quella salitella, lì adesso non mi ricordo come il poggio, c'è il poggio, c'è il poggio. Qui invece, qua c'è il derby, qua c'è il derby. C'è il derby. Una seconda cosa, gentilmente. Sì. Secondo me queste partite in cui Ibrahimovic non ci sarà, due o tre, secondo me sarà l'ultima prova reale per la carriera di Cassano. O fa qualcosa qui, o per me ha chiuso a 29 anni, perché è stato finora quest'anno, sì, due assist, qualche golletto, ne ha fatti quattro che sono pochissimi, sì. Non è mai stato, a mio avviso, incisivo. Io sono molto critico con Cassano, ritengo che sia un giocatore più sopravvalutato del calcio italiano, ma onestamente, anche perché non ha potenza, non ha tiro da fuori, non ha la punizione, non ha il colpo di testa, ha soltanto un bel tiro da dentro area. E dribbling di solito fa sempre quello sulla sinistra, a rientrare cerca di tirare alla Del Piero, tra virgolette, no? Sì. Come in Coppa Intercontinentale. Beh, però la capacità di immaginare l'ultimo passaggio, Cassano, credo sia forse la sua qualità migliore. Poi è comunque un giocatore che non che ha i suoi difetti, no? Ha i suoi difetti, naturalmente. Però è un giocatore che è un altro trasformatore di energia, un po' come Boateng, in un'altra chiave, in un'altra veste, però è un giocatore che quel colpo ce l'ha. Dire che queste partite, queste ipotetiche partite senza Ibrahimovic, perché stiamo parlando di ipotesi, cartellino rosso c'è stato, secondo me la squalifica sarà sulle tre giornate, perché è stato rosso diretto, perché è stato condotta violenta. Però mi sembra un po' troppo dire tre partite e poi la carriera di Cassano è finita. La sensazione è che in questo Milan non sia ancora entrato totalmente. Forse non avrà mai in mano questo Milan come aveva in mano la Sampdoria, che era secondo me la sua dimensione ideale. Cioè il miglior Cassano è quello che può avere il centro del palcoscenico come Ibrahimovic nel Milan. Ci fermiamo, poi torniamo. 800 24 00 24, il numero verde. Ciao, strega Pallanza, sei passato ad Eritline? Pallanza, ma se tua moglie è strega, tuo suocero è stregone? Sì, e mo viaggio e te fa sparire. Oh, parlo con la strega. Risparmia delle battute. E tu risparmia sulla polizza auto. Passa ad Eritline. Su Eritline.it puoi risparmiare oltre 200 euro e ti mandano tutto a casa gratis. Vai, Eritline, oh, ma sei un mago. Grazie, strega. Saluta Pallanza. Direct Line, l'assicurazione a portata di mouse. Fai il tuo preventivo. Prima della sottoscrizione, leggere il fascicolo informativo su Directline.it. Altri piatti, ma potrei invitare tutto lo stadio. Oh, i coltellini per il pesce e palla. Scegli il Foppa Pedretti, una lista nozze originale per vivere la tua casa in modo utile e nuovo. Foppa Pedretti, la tua lista nozze, fuori dal comune. Immagina un veicolo con tutto lo stile e la sicurezza Volkswagen. E adesso guidalo su strade con 100% dipendenza e aggiungi la trazione 4Motion permanente o inseribile. Nasce Amarok, il nuovo pick-up Volkswagen vincitore dell'International Pick-up Award 2011. Scoprilo presso i concessionari Volkswagen veicoli commerciali. Mi chiamo Mohamed Hanikazen, raccolgo pomodori nei campi. È un lavoro duro, ma una gioia grande per me tornare a casa ed abbracciare mio bambino e la sua mamma. Qualunque lavoro tu faccia, tornare a casa è un diritto. Segui le regole che tutelano il bene più importante per te e per i tuoi cari, la tua vita. Informati su sicurezza.lavoro.gov.it e ricorda che la sicurezza sul lavoro la pretende chi si vuole bene. Campagna a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Sì? Quel progetto riservato? Era sul portatile che mi hanno rubato. Non sottovalutare la sicurezza dei tuoi dati. Cambia portatile. Con Fujitsu e Intel, massima sicurezza, anche in movimento. Il notebook Lifebook Fujitsu protegge sempre i tuoi dati e in caso di furto o smarrimento puoi rintracciarlo e cancellarli da remoto. Lifebook Fujitsu, con processore Intel Core i5. Nuovi Lifebook Fujitsu. 800-466-820. O cambiaportatile.it. 8, 9 e 10 aprile il gruppo Idrocentro ti invita a Expo Torre 2011, la casa e il clima. Expo Torre 2011 è l'unico momento di confronto sulle energie rinnovabili, con la presentazione dei sistemi per solare termico e fotovoltaico, geotermia, pompe di calore e biomasse. Approfondimenti e convention su architettura e impiantistica. Expo Torre 2011, 8, 9, 10 aprile a Torre San Giorgio Cuneo. Info 800 577 385 e www.expotorre.it. Nelle concessionarie Fiat, la primavera è già cominciata. Adesso? Sì, il cambio di stagione è stato anticipato per farti approfittare subito di un'offerta straordinaria. Senti qui. Punto My Life a 10.200 euro e Panda My Life a 8.800 euro. Aha. E in più, fino a 1.000 euro di extra bonus su tutta la gamma Fiat in pronta consegna con il contributo dei concessionari Fiat. Hai tempo solo fino al 31 marzo. Corri, perché il cambio di stagione non aspetta nessuno. A tempo di sport. Dunque, a beneficio di Giovanni che ci invia un SMS e di tutti i fantacalcisti, come fantacalcisti ho detto, non guardarmi così Giorgio De Luca, di tutti i fantacalcisti come lui, riepilogo tabellini e marcatori molto rapidamente, lasciando stare le partite di ieri. Cagliari 0, Udinese 4, Benatia Sanchez doppietta di Di Natale, Catania batte Sampdoria 1-0 gol di Jama. Vargas dà la vittoria alla Fiorentina Verona, quindi Floro Flores sigla la vittoria del Genoa sul sempre più depresso Palermo. Di Ramirez il gol che permette al Bologna di vincere a Lecce. Milan Bari 1-1, Rudolf e Cassano i gol, e poi c'è il derby di Roma naturalmente con doppietta di Totti. Questi i tabellini del pomeriggio. Invece, questo Giovanni scriveva questo SMS. Filippo Maria Ricci sulla Gazzetta dello Sport di oggi scrive: il gatto ha infilato gli stivali, si è arricciato il baffo, ha sfilato la spada e ha trafitto l'Hercules. Ciao Filippo. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Il gatto con gli stivali ormai... è il nostro eroe. È lanciato, cioè, È il nostro idolo, il gatto con gli stivali, lo sai, sì. Sono sei mesi che ne parliamo. Cioè, è il personaggio chiave delle nostre chiacchierate. Esatto, per quello io ho cominciato così ieri. Perché ci avevamo messi d'accordo prima. No. Alla Mourinho gli vuole tanto bene che ieri in conferenza stampa si è dimenticato che è arrivata a 3 doppiette consecutive, gliene ha, diciamo, come si può dire, avallate solo 2. Sì, l'altra non gli è piaciuta. No, l'altra non gli è, se l'è dimenticata. Sì, e poi la cosa bella, dice: pensate che negli spogliatoi, dice, lo prendiamo anche in giro, perché adesso torna a difendere sui corner. Cioè, il giocatore che ha appena segnato i 2 gol che ti hanno permesso di battere 2-0 l'Hercules. Ma sai bene che per Mourinho questo è fondamentale, no? Ti ricordi la guerra a Balotelli sul fatto che non tornava, che non aiutava? Questo è ciò che conta per Mourinho. Tu lo conquisti, sì. Così è che non lo capiscono? Non lo capiscono. No, però adesso Benzema l'ha capito, perché appunto torna sui corner. Sì, ce l'ha messa, però. Sì, ce l'ha messa un po'. Però il punto è che il ragazzo sta tornando il grande campione che era. E penso che a Madrid gli possa far parecchio comodo. Come no. Questo, anche perché non ne ha moltissimi altri. Vicenda Kakà, a che punto siamo? Niente, silenzio. Silenzio di tomba. Allora, Kakà tornerà, si dice, verso il 3 aprile. Però non è che abbia un infortunio tale da tenerlo fuori dai campi per un mese. Era un po' depresso, dice, io se gioco male non rendo, e ha chiesto ai medici di esautorarlo. Sì, gli hanno fatto la giustifica. Sì, il classico certificato medico. Sì, certificato medico, però insomma, Mourinho non è che l'ha presa tanto bene, e per quello che ne so io, nemmeno Florentino. Cioè, gli amici cominciano a diminuire. Eh sì, poi scusa, ho detto Florentino quando dovrei dire il re Florentino. Sì, il discorso del re. Ieri, quella è la cosa più bella di ieri. Il discorso del re? Allora, io dico, gli spagnoli, se posso, diciamo, dire un difetto dopo 5 anni che vivo qua, è che hanno poco senso dell'umorismo. E ieri non si sono accorti che insomma, che José Mourinho prendeva abbastanza in giro il presidentissimo. Sì. L'hanno apprezzato, hanno apprezzato come frase, sì, dice, è importante, però da come l'ho vista io, insomma, quando dice sì, questo non, diciamo, cioè, dopo il discorso del re, riferendosi al film, c'è stato il discorso del re Florentino, sì, che era un discorso che finalmente appoggiava un po' le mattane del suo allenatore, sì. criticatissimo per questa, no, vis polemica esagerata. E in piena campagna elettorale, mi pare. Dice: al Milan non vado, però vado in Inghilterra. È in piena campagna elettorale, Mourinho. Cosa sta facendo il City? Il City, aspetta che te lo dico, aspetta che ti dico cosa sta facendo il City con il Reading. Intanto il City ha giocato una partita da coprirsi gli occhi, come ben sai, l'altro giorno. Esatto. Eccolo qua, Manchester City, Reading, non mi funziona la scheda, pazienza, te lo dico un'altra volta. 0-0. Che secondo me lì bisogna guardare, oltre a tante altre squadre, però insomma lì mi sembra uno dei... Sì, al fine primo tempo 0-0. Fine primo tempo 0-0, sì. Ti chiedo prima di lasciarti andare a cena con Mourinho, ti chiedo di inquadrarmi invece quello che ci aspetta in settimana in Champions League. Il Real, ma anche l'Inter. Come le vedi? Ah, il Real lo vedo bene. Sono sempre usciti col Lione, quindi questa volta le cose mi sembra che cambiano. Se dovessero uscire, non li vedo più. Cioè, non è che non li vedo bene. Non li vedi più? No, sono d'accordo. Cioè giovedì, non lo so, è un altro giorno. Come diceva Rossello Ara, per rimanere in tema cinematografico, anche perché Re Florentino entra con le truppe. No, Re Florentino potrebbe anche dimettersi, non lo so, potrebbe succedere un cataclisma di dimensioni sì, così, ciclopiche, calcisticamente impensabili. L'Inter è complicato. Sì, anche perché la statistica dice che una sola volta chi ha perso in casa ha poi passato il turno. No, io sono in difficoltà perché di vecchia fede interista, adesso mi interessa relativamente, però in realtà tifo per le squadre italiane, quindi ammetto sinceramente che speravo che passasse anche il Milan, sì. Così come la Roma non ci ho mai creduto, quindi vabbè, però il Milan lo speravo, perché se dovessimo trovarci il 17 o 16 di marzo senza uno straccio di squadra tra Europa League e Champions è brutta. Sì, ma comincia la primavera, andiamo a cena fuori, Filippo. Per cui invito tranquillo. Anche chi non ti fa Inter un po' magari a turarsi il naso. Sì, no, è giusto. Poi non chiederlo ai milanisti, neanche agli juventini, no, diciamo, vabbè, a tutti gli altri. Però andiamo male, non va bene. Io poi appunto vivendo all'estero la soffro questa situazione. E non è piacevole. No, è chiaro, però insomma sono cose che ci stanno. Il calcio è un po' come il Palio di Siena, no? Quando non si esagera, queste cose sono quasi fisiologiche. Un abbraccio, Filippo, salutami il tuo amico e anche certo. Il re se c'hai voglia. Certo. Ciao Filippo, grazie Filippo Maria Ricci, Giuseppe da Palermo, e poi dopo il traffico abbiamo rugby oggi ce n'è da dire. Giuseppe, sì. Prego, buonasera. Buonasera a lei, senta, io volevo parlare, volo molto più basso anziché della Champions, voglio parlare del mio Palermo. Sono veramente molto... Quando torna degli Orossi? Bravissimo, guarda. Purtroppo credo che dobbiamo perdere altre due partite perché la pazienza di Zamparini dura quattro partite. Anche questo l'ho detto prima io però, Vabbè, c'ha ragione. Comunque il pensiero comune credo sia il pensiero della maggior parte dei tifosi del Palermo. Ho visto una squadra, anche se oggi ha giocato leggermente meglio che a Roma, veramente involuta. Sì, perché... cioè, i giocatori fuori ruolo non se ne può più, basta Zamparini, se devi far così meglio che se ne vada. No, anche perché non c'era ragione, cioè con tutta la stima che ho per Cosmi, che è anche un personaggio molto simpatico oltre che un bravo allenatore, però non c'era nessuna ragione al mondo per fare questa continua guerra a Delio Rossi, che continua a considerare uno dei migliori allenatori italiani. Aveva disegnato un Palermo, magari se vogliamo anche bizzarro, quel 7-0 che ha provocato il suo licenziamento secondo me non vuol dire nulla. È chiaro che è una squadra che è fragile, è strutturalmente fragile, è una squadra molto giovane, e quando ti metti in mano ai giovani ti devi rassegnare ad un rendimento molto altalenante. Però, santi Dio, una delle poche squadre che era bello veder giocare a pallone, no? A prescindere dalle amnesie difensive, da tutto quello che vogliamo. Una squadra di talento, fresca, che era bello veder giocare, che aveva grande facilità nel trovare il gol, che poteva, classica squadra che può battere tutti o perdere con tutti. A me il Palermo piaceva così com'era. Adesso il Palermo mi pare, caro Giuseppe, che non è né carne né pesce. Credo interpretare il pensiero della maggior parte dei tifosi del Palermo. A noi piaceva così, a noi piaceva la squadra che aveva fatto Rossi con due attaccanti, insomma mezze punte come sono Pastore o Ilicic. Pastore da trequartista oggi non ha fatto vedere niente di buono, secondo me. Insomma, poi il pensiero mio, ma credo che sia il pensiero di tutti gli altri. Io spero soltanto, purtroppo ci sono due partite molto difficili, col Milan e col Catania. Mi dispiacerebbe perdere veramente quella col Catania. Però, immagino, posso capire. Però siamo ormai, Cosmi secondo me non ha portato niente di nuovo alla squadra. No, ha cercato di ricompattarlo un po', però il materiale è quello che degli Orossi, che Mica Fesso aveva messo in campo, una squadra che ha dei limiti strutturali, cercava di esaltarne i pregi che stanno nel talento e nella freschezza di questi giocatori. Il materiale là, chiedo scusa, Rossi è riuscito ad andare a vincere a Torino. Certo, ma poi ha giocato delle grandi partite, insomma, vi siete divertiti a Palermo, al di là del fatto che si pigliavano un po' di gol, vi siete divertiti a vedere giocare a pallone, questo è indubbio, tanto non è che si chiedesse di vincere lo scudetto come un giorno disse Zenga, no? Grazie Giuseppe, in bocca al lupo a lei al Palermo. Ci fermiamo per il traffico e poi vedo pronto un altro Ricci, cioè Dario, parleremo di rugby. Strade in diretta. Sulla 7 Milano-Genova si resta in coda per lavori che si sono resi necessari dopo un incidente tra il bivio per la 12 Genova-Livorno e l'innesto per la 10 Genova-Ventimiglia in direzione del capoluogo ligure. Ripercussioni anche sulla 12 con code a partire dallo svincolo di Genova-Est. Si lavora dopo un incidente anche sull'autostrada del Sole e ci sono code tra Firenze, Certosa e Incisa sulla carreggiata in direzione Roma. Code per lavori sulla 14 Adriatica tra Valvibrata e San Benedetto del Tronto verso Ancona. Traffico intenso e code alle porte della capitale sulla diramazione Roma Sud tra Torrenova e l'innesto per il grande raccordo anulare verso quest'ultimo, e sul raccordo ci sono code a tratti per il traffico tra la diramazione Roma Nord e Tiburtina sulla carreggiata interna. Code infine verso la Svizzera sulla 9 per operazioni doganali tra Como Monteolimpino e Chiasso. Per il momento è tutto, il prossimo aggiornamento tra mezz'ora. Promo 24. Il clima ideale aiuta a rilassarsi e a cancellare lo stress. E adesso a Marrakech ci sono 26 gradi. In questo momento dell'anno è tempo di prenotare una vacanza in Marocco. Soli, con la famiglia o con gli amici, c'è più scelta, si spende meno e ci si sente subito in vacanza, nella terra di un popolo accogliente, in pace, all'ombra delle palme e di una storia antichissima. Il Marocco vi aspetta su www.visitmorocco.com. A tempo di sport. Dunque torniamo per parlare di rugby con apposita sigletta. Speciale 6 nazioni. Allora, caro Dario Ricci, buongiorno. Buongiorno e anche pure buonasera, va, raddoppiamo. Buongiorno e buonasera, ormai ho perso la cognizione del tempo come sempre la domenica a quest'ora. E ieri Dario Ricci ci ha raccontato la vittoria, il finale della vittoria dell'Italia sulla Francia. Momento magnifico, anche se poi ieri ho avuto da dire con qualche ascoltatore. Uno lo vedo già in linea, Matteo dalla provincia di Forlì è già lì. 800240024, se volete intervenire in questo finale dedicato a un 6 nazioni che ha una regina. Eh sì, di fatto ha già la sua vincitrice, perché l'Inghilterra ha battuto la Scozia 22-16, ha deciso di fatto un drop di Wilkinson, tanto per unire insomma nuovi talenti come Flood e vecchi campioni, e quindi di fatto l'Inghilterra è prima in classifica con 8 punti, ma anche con una differenza punti rispetto al Galles che insegue a 6 di più 42, e di fatto ben difficilmente, anche se l'Inghilterra dovesse perdere nell'ultimo turno a Dublino con l'Irlanda e il Galles vincere a Parigi con la Francia, questo quoziente punti verrebbe ribaltato. Quindi insomma, Inghilterra che adesso ha come obiettivo il grande slam, e vedremo se ce la farà. Scozia che ha come obiettivo quello di battere l'Italia tra 7 giorni a Murrayfield. Assolutamente sì, considerando poi che è una Scozia che si sta ritrovando e oggi veramente ha dato filo da torcere agli inglesi, è stata attaccata al match fino alla fine, ha ritrovato anche la certezza di Patrick Robertson, grandissimo, infallibile calciatore, lo sappiamo bene perché in Francia nel 2007 anche lui contribuì a quella grandissima delusione, e quindi partita da non sottovalutare, che vale triplo a questo punto, perché anche la prova del 9 dopo quello che abbiamo visto ieri al Flamini. Sicuro. Poi invece in Francia oggi gli hanno levato la pelle ai galletti, le piume ai loro galletti, mentre in Italia il diritto di critica sulla nazionale di rugby è sopito, perché se io dico che giochiamo un rugby catenacciaro, che secondo me è la verità, cerchiamo di far sembrare brutti gli avversari, queste sono le nostre armi, o quantomeno queste sono le uniche armi che gli allenatori che arrivano dall'altro emisfero di solito ci riconoscono, ma ci avete le mani di pietra e quindi difendete, rotolatevi, picchiate e cercate di far giocare male gli avversari. Cosa che ieri siamo riusciti a fare benissimo contro la Francia. Ma sì, anche quello è un merito, insomma. C'è pure chi ha fatto il triplete a forza di contropiede, ma qua apriamo tutto un altro capitolo. Però insomma, mettere un po' di zinzania in casa francese è sempre divertente, perché l'equipe che aveva titolato il famoso Vacanze Romane, che è stato poi all'origine della solenne incazzatura, se mi è concesso, degli azzurri, che ha portato poi al risultato di ieri, oggi titola Total Fiasco. Poi altri titoli: Blues patetici, vergogna, l'equipe ancora nell'editoriale a pagina 3 chiede di voltare pagina, ci si chiedeva se gli italiani erano degni di al 6 nazioni, ebbene adesso dobbiamo chiederci se lo è il 15 francese. Poi gli altri giornali, Le Parisien parla di naufragio francese, stavolta è grave, Le Journal du Dimanche, insomma fa un po' sempre un po' più piacere, no, creare questi problemi ai cugini. Ma a me i francesi non sono così antipatici, io sono un po' più... però anche pungolatina così, sì, certo. Stimola il dibattito. Sono stati molto spocchiosi e molli, spocchiosi e probabilmente anche un po' demotivati. Certo, queste critiche arrivano su una squadra che è quella che detiene i sei nazioni, non dimentichiamolo. Certo. Invece in Italia, se l'Italia gioca male, non si può dirlo, perché sennò poi sarebbero gli ascoltatori. Non so, Matteo, buonasera. Sì, buonasera. Io volevo fare veramente grandissimi complimenti a questa nazionale, che ci ha dato una soddisfazione immensa, perché era una di quelle vittorie inaspettate, una di quei tabù secolari che finalmente è caduto. Sì. E adesso ci resta l'Inghilterra, ci mettono l'Inghilterra e l'Irlanda nel sei nazioni. Sì, diciamo che l'Irlanda poteva già essere stato anni fa, e anche ultimamente potevamo già averla battuta, ecco. Poi mancano, vabbè, quelle dell'emisfero sud, però io ho visto un'ottima Italia, perché è stata unita per la prima volta, forse si è resa conto delle sue potenzialità e che poteva portare a casa la vittoria. Secondo me giochiamo sempre abbastanza male a rugby, dal punto di vista della, diciamo così, della fluidità della manovra offensiva. Cioè abbiamo sempre un rugby molto, molto speculativo, molto legato ai calci, che ieri ci ha dato la vittoria con Mirko Bergamasco. Però non vedo progressi dal punto di vista della crescita tecnica neanche di questa squadra. Io non sono d'accordo, perché se guardiamo, diciamo, fino alle sei nazioni, almeno fino al 2006, noi facevamo dei sei nazioni che facevamo fatica a fare una meta in tutte le partite. Dipende. Quest'anno abbiamo fatto una meta in tutte le partite e comunque siamo... Guardi, io vedevo segnali di crescita con Barbizier. Fino al 2007 secondo me siamo cresciuti sotto la guida, non a caso, di un tecnico francese. Siamo cresciuti da molti punti di vista. Poi la crescita si è arrestata, complice anche l'addio al rugby di un leader come Troncon. Quindi lei mi dice, si può vincere 8 volte in 11 anni e essere felici? No, cioè io voglio dire solo che secondo me siamo in crescita anche rispetto agli ultimi anni, anche perché, cioè, non dimentichiamoci che per un annetto, credo 2 anni, hanno tolto la regola della rolling ball, che per noi era fondamentale, certo, quindi quell'anno lì noi abbiamo preso il cucchiaio di legno. Io volevo concludere solo dicendo che spero che questa mentalità vincente, cioè della coscienza dei nostri mezzi, tenga duro fino alla partita con l'Irlanda, e quella nei mondiali in ottobre. Sì, quella è una partita spartiacque. Certo, si ripropone un po' la situazione di 4 anni fa, come lei si ricorderà, dopo il miglior sei nazioni, ma quello fu il migliore da molti punti di vista, non solo dal punto di vista dei risultati. Miglior sei nazioni della nostra storia, con la vittoria sul Galles e la vittoria in Scozia, poi carichi di fiducia andammo verso il mondiale e tornammo un po' delusi, diciamo così. Quella serata di Sant'Etienne è un po' difficile da dimenticare per la nostra palla ovale, Carlo. Dunque, Dario, chi vuoi sentire di questi signori? Sentirei Leo Ghiraldini. Sì, il nostro allenatore. Ieri si è diviso il ruolo con Festuccia, ma insomma, prima linea che ha tenuto testa davvero alla grande, a quella che fino a ieri, insomma, con assoluta certezza era la prima linea più forte al mondo. Dunque, busto numero uno, Ghiraldini. La Francia da sempre è una squadra molto ostica e per noi molto molto difficile, la soffriamo abbastanza, ma abbiamo dimostrato oggi di poter veramente fare risultati, e ci voleva una partita del genere dopo due partite in casa precedenti che siamo arrivati veramente molto vicini alla vittoria, e vincere con la Francia con l'ultima partita delle Sei Nazioni in casa era molto importante per noi, per il nostro pubblico. Ma credo che non ci abbiamo pensato troppo, quella è stata una cosa molto importante, non abbiamo guardato troppo al tabellone, abbiamo cercato di mantenere comunque la lucidità, il nostro gioco, e nonostante poi qualche errore abbiamo sempre cercato di ritornare nel campo loro, di fare noi la partita, e questo è stato sicuramente un punto molto importante, e credo che l'esperienza derivata poi dagli ultimi anni si sia vista molto anche oggi. Vittoria storica, ma quanto pesa per la crescita di questo gruppo? Come cambia da oggi questa Italia del rugby? Ma noi sicuramente molto molto importante, perché la volevamo tutti, la volevamo veramente noi giocatori, lo staff, il pubblico, e pesa credo fino a un certo punto. Abbiamo un'altra partita la settimana prossima con la Scozia in Scozia, e dobbiamo riconfermarci e dobbiamo continuare su questa strada e dimostrare che l'unico passo falso fatto durante questa selezione è stata la partita con l'Inghilterra. Cari Parma, sponsor della Nazionale Italiana Rugby, vi ha presentato Speciale Sei Nazioni. Benissimo, caro Dario Ricci, adesso andiamo a vederci lo Star Game. Primo quarto, spettacolo. 26-14 per gli All-Star, poi lo raccontiamo. Bello. Andiamo a vedere lo Star Game che si sta giocando a Milano con la prima esibizione stagionale della nostra nazionale. Adesso c'è la finale del tiro a tre punti, ma vi raccontiamo tutto più tardi, Dario Ricci, dalle 8:30 alle 9, anche se non c'è campionato di Serie A, c'è il basket e c'è lo Star Game. Ci sentiamo più tardi.